Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. E non potete immaginare di chiedere a chi in questo momento si dimette per fare il congresso di non candidarsi, perché questo è l'unico strumento attraverso il quale si evita la scissione. Ho comunicato formalmente le dimissioni, il congresso ha dei tempi statutari, la parola scissione è una delle parole più brutte del vocabolario politico, peggio della parola scissione c'è solo la parola ricatto. Non è accettabile che si blocchi un partito sulla base di un diktat di una minoranza. Pare di aver avuto nessuna risposta né di merito né di metodo. Quindi si è alzato un muro e dietro a questo muro siamo anche stati bastonati. Mi sembra che sono maturi i tempi per una forza nuova. Ecco. Questi qui che hanno portato il 40, se il prossimo giro mi fanno arrivare un governo della destra, li vado a cercare. La minaccia di Bersani. Se questi, a parte che scusi, presidente Rossi della Toscana, c'è bisogno di una forza nuova, ecco, vabbè, però forza nuova c'è già e non è proprio di sinistra. Attenzione alle parole, eh. Ma la migliore è la minaccia di Bersani, li vado a cercare questi qui. Si parla ormai da settimane di scissione. Se lei mi domanda si fa la scissione per quale motivo preciso, io non glielo so dire. Bah. Sinceramente. Caro De Luca, siamo in due. Siamo in due, tu sei sempre più candidato a condurre 24 mattino. Mai papà, ti lascerò presto lo scettro, perché c'è uno più lucido di De Luca, io non riesco a trovarlo. Ma si capisce che non è mestiere tuo. Per l'appunto, per l'appunto. Sono le 6:33 minuti, signori, è lunedì. Un lunedì che a Milano virava tra i 3 e i 4 gradi in quella nebbiolina grigia color asfalto che confondeva e faceva confondere proprio l'asfalto con il cielo. Insomma, questo alle 5 del mattino. Ci fanno sapere invece che a Pandino, provincia di Cremona, ci sono 3 gradi. Grazie Tonio. Andrea vive, che vive, si sa, vive sull'autolaghi. Ha lì una tendina, dorme per recuperare quei 2 minuti per venire a Milano. Ci fa sapere che l'autolaghi è già ipertrafficata. Saluto Dieng da Paese, il nostro grande. Giusto, bravo, metti le previsioni. In Val Brembana stamattina 1 grado, a San Pellegrino Terme, ce lo fa sapere Marco. Mentre Rosanna di Monte San Pietro Bologna dice che sonno, ma dice anche quanti gradi ci sono, cara Rosanna. Sapete che qua facciamo questo spaccato d'Italia. E non solo d'Italia, voglio per questo salutare subito il nostro ospite vincitore del 6° scudetto consecutivo, il nostro Marione Adinolfi. Grande, grande. Ciao Marione, come stai? Grande gol di De Lucchi. Pensa che la Gazzetta ha titolato Notte da Deu, ce l'avevano in canna da quando l'hanno acquistato. Era così. Questo sesto posto, questo casino, insomma. Forse settimo, vorrei anche rettificarlo. Vabbè, uno, due, certo, tre, quattro, cinque, sei. Siamo settimi. Ma ho ottenuto per te. Allora, Viareggio pochi gradi, meno una Taranto, sei a Pordenone, ma soprattutto sappi, caro Mario Adinolfi, siccome ci ascoltano in tutto il mondo, tu lo sai, in certo. Ohio, in questo momento, in Ohio, da Columbus, ci sono 7 gradi, ce lo fa sapere Matteo. Matteo è scappato fino a Columbus, Ohio, cioè, deve averla fatta grossa. No, dalla Ohio State Columbus University, Ohio. Sarà un giovane che studia all'estero. Un cervello in fuga che però ascolta 24 mattino in diretta, capisci? Per nutrirsi ancora la saggezza. Sì, esatto. Allora, eccoci qui insieme, ci fanno sapere che a Letto ci sono 20 gradi, non so quale località sia Letto, comunque insieme a Mariona Adinolfi voglio salutare il quasi... Certo, a Letto, capito. Il quasi omonimo, eccolo qui, Carlo Rienzi che ci deve sapere, ci spiegare tutto sulla scissione o no, quasi omonimo. Sono pronto. La scissione è inevitabile. Così avremo perlomeno 2 partiti, uno di destra e uno di sinistra, che si equivalgono come forza. Sì. E avremo finalmente di nuovo un dibattito politico. Proprio sui 5 Stelle, che se finisce così saranno i dominatori assoluti e non delle elezioni. Io ci guardi oppure dipende da... Vabbè. In ogni caso, adesso snoccioliamo tutte le possibilità. C'è qua uno che ama la politica e vive di politica. Mariona Adinolfi, apriamo il Parlamento. Intanto, caro Marione. No, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ci fa sapere in diretta il buon Matteo dalla Ohio State University. Lavoro all'università sulla macchina elettrica più veloce del mondo, la capito? Venturi Buckeye Bullet 3. Vedi cervelli in fuga? Vedi cervelli in fuga. Grande Matteo. Che adesso invece di studiare che mezzanotte in Ohio se senti radio 24 mattino. Vuole sapere prima di andare a dormire a Columbus, Ohio, se c'è la scissione. Ha fatto la scissione. Se c'è la scissione. Prima però, visto che Matteo ci ascolta dall'America. Ragazzi, a noi va bene tutto, ma c'è un presidente negli Stati Uniti d'America, si chiama Donald Trump, che io darei l'indennità di lavoro usurante a chi fa lo staff, chi è nello staff di Donald Trump. Cioè, ieri Donald Trump ha confuso la località di Sewan in Pakistan con Sweden, cioè Svezia, e ha detto bellamente per un giorno, twittando, che c'è stato un attentato in Svezia, e l'ha detto anche in un comizio. Senti. Happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. Che? Tre volte in Svezia! Chi l'avrebbe mai detto in Svezia? Così tranquilli, in Svezia! Ma non è successo una minchia in Svezia, Trump! Niente è successo! Sono svedesi, sono tranquilli! Cioè, Marione, adesso possiamo sorridere la post-verità? La post-verità! Ci fa un po' ridere, sicuramente fa. Ho capito, ma ci deve solo far ridere, punto, basta, andiamo avanti! E che vuoi fare? Ma il presidente per gaffa. Ma è il presidente degli Stati Uniti. Per gaffa, sai quanti potenti italiani avrebbero potuto fucilare, insomma. Ma ho capito, ma non può il presidente americano fare un comizio dicendo ho capito la Sweden. Vi rendete conto? Sweden. Ma ha sbagliato, su. Ho capito. È come i congiuntivi in Italia, cambiato premio, riesce a dire. Vabbè. Niente di grave. No. Insomma, ragazzi, allora va bene. Allora, Marione, la scissione, tu hai capito qualcosa? Titolo della telenovela puntata numero 1000, 2000, 7000. Niente da capire, io capisco perché siete così tutti agitati, ma è ovvio, c'è la legge proporzionale. Renzi, se vince il congresso, fa strage della minoranza, cioè non ricandida i gli amichetti di Bersani e compagnia. Gli amichetti di Bersani e compagnia, avendo la proporzionale, fanno la lista, perché se la lista prende 6-7%, una cosa minimale, non è che prenderà chissà che, porta a casa 80 parlamentari tra Camera e Senato. E quindi ricandida e rielegge tutti gli uscenti. Quindi il motivo della scissione è tutto qui. Io non ma vi certo. ricandido, e allora noi ce ne andiamo prima. Ma è ovvio che è questo. Ma poi quale altro motivo? Vai, veramente credi al problema se fanno il congresso a maggio, ma no. a giugno, se c'è la conferenza, no, infatti anche De Luca, dice allora, io non l'ho capito questa motivazione. Ma noi come non ho capito? È chiarissima la motivazione. Con la proporzionale sono 80 seggi, gli uscenti sono tutti garantiti, ma altrimenti chi lo rielegge? Cotorra, fammi capire. Ma secondo te Renzi se ti mette in lista tutti quelli che gli hanno fatto il dito al culo per anni, è ovvio che non li rimette in lista, no? Quindi, ma perché non lo dico? Perché non lo dicono così? Magari togliendo il dito o il dito così? No? Perché non si può andare sul palco e dire siccome non mi ricandidi allora faccio la scissione, suona male. L'unica, assolutamente l'unica motivazione per cui nascono i sovranisti di destra di Alemanno e Storace, nascono i Sinistra Italiana di... Ma visto, avrai notato che Sinistra Italiana ora deve fare il gruppo parlamentare con i fuoriusciti del PD, col piccolo problema che Sinistra Italiana e l'opposizione di Gentiloni e i fuoriusciti del PD hanno detto che, non, che la scissione la fanno perché non si conferma Gentiloni fino al 2018. Sì. E mo come fanno a fare il gruppo insieme? Vabbè, insomma, era per questo piccolo dettaglio che una è l'opposizione e l'altra in maggioranza. Cioè, questo è il motivo, caro Renzi. Il, motivo, non, il seggio, la cadrega, diremmo a Milano. La cadrega, la cadrega. Di natura politica. Cioè, non c'è... c'è da dire che a sinistra c'è un notevole movimento. Non è. Sì, è vero che sempre la poltrona è alla base di tutto, però a quello che sento io, la gente, diciamo quella diciamo di sinistra tra virgolette, perché insomma adesso non è tanto facile definire la sinistra, è piuttosto seccata di tutta una serie di cose, come la legge sul Job Act, come una riforma della scuola che non va, una legge sulla concorrenza che sta lì da 2 anni bloccata e non si fa, cioè i cittadini pure sono un po' stufi di questo atteggiamento apparentemente di sinistra, che poi è stato un po' il doppione di quello che faceva Berlusconi, perché non Renzi ha fatto questo tipo di legislazione, di politica che faceva Berlusconi, è riuscito a farla, anzi meglio di lui. Quindi c'è un forte movimento, anche questi nuovi, questi vecchi nuovi che si sono riuniti lì a Rimini, dove stavano, non mi ricordo. Quindi c'è un bel blocco che perlomeno diciamo un 10-15% ci dovrebbe arrivare, e questo significa riaprire un po' anche il dibattito sui grandi temi. Sì, perché ma no, ma c'è cioè, la verità, però certo che la lettura sui seggi è effettivamente quella più semplice, perché non si è capito di colpo, scusa, di colpo scusate, hanno iniziato a dire scissione. Ma il problema era il job tax, no? O il congresso riforma, a maggio, a settembre, a giugno. Non votavi il job tax e uscivi su una motivazione ideale. Questi hanno votato il job tax, hanno votato tutto, hanno votato la riforma costituzionale, hanno votato la riforma dell'Italicum. Sì, ma perché non si aspettavano ma... probabilmente l'epurazione, cioè si è collaborato, ma è solo l'epurazione tutta lì, cioè, non è una... però rompi sulla riforma costituzionale, rompi sul, dici esco dal partito, lì hanno rotto. Infatti è una questione che tra l'altro attenzione. Sì, ma tra l'altro bisogna capire scissione, non scissione. Veramente oggi il titolo che ho trovato è questo: sarà scissione a rate. No, ma ragazzi, ma che è sta cosa? Perché stanno le giunte locali da salvaguardare. Sì, il migliore, infatti, è Emiliano. Emiliano, dopo aver tuonato tutti i giorni contro Renzi, è andato davanti a Renzi e ha detto: io ho fiducia in Renzi. Secondo me. E certo. Poi è uscito, hanno detto vai Emiliano l'abbiamo recuperata, è uscito da lì e ha fatto un comunicato con Rossi e Speranza dicendo no, scissione, basta, mi sono staccato nel giro. Manca l'intervento del giorno prima al Teatro Vittoria, io manderei in loop l'intervento al Teatro Vittoria e quello il giorno dopo all'assemblea del PD, perché nell'assemblea del PD Emiliano dice: e io non capisco quelli che ti dicono che non ti devi ricandidare. Il giorno prima aveva detto lui che il resto non si doveva ricandidare. Sì, sì, sì, sì. Emiliano nel giro di 24 ore ha fatto la scissione, l'ha ricomposta e si è riscisso. E poi ha fatto all'inizio, e quindi ha fatto pure anche la scissione degli scissionisti. Poi si è ricomposto. Comunque tra i cinque litiganti il sesto gode. E cioè? I 5 Stelle. Ah, i 5 Stelle. E vabbè, certo, ma anche Berlusconi. Cioè, adesso Berlusconi. Berlusconi dice: vinciamo noi! Candidiamo Zaia e vinciamo noi. Cioè, capito? Ormai ognuno, giustamente, può, vede questo impazzimento, alza la cresta e dice: vabbè, ma allora. Cioè, ma è tutta questo... una recita, perché nessuno vince, amici. Ma deve, l'avete capito so. Come funziona la legge? Perché se no ogni volta voi dite: ah, elettorale, non capiamo niente. Avete capito come funziona questa legge? Vabbè, funziona che i grillini non conteranno una massa, faranno l'opposizione alla grande intrusione tra tutti quelli che prima saranno fittamente scannati. Intanto Marione pensa che ci sono 33 gradi a Phuket. Beh, quello sicuramente in, in Thailandia. Che un giornalista va a fare e va a fare in culo. Pronto, è la zanzara? Ah, 24 mattino? Vabbè, uguale. Buongiorno Alino, ma le palme sono da dattero o no? È importante la differenza. Dire che l'immagine che fornisce l'Italia oggi è quella di un grande circo equestre. L'Italia, De Luca, l'Italia, la politica italiana, adesso specifichiamo, no? Perché c'è chi poi confonde l'Italia con il circo equestre della politica italiana. L'Italia, l'Italia è altra, l'Italia è quella che si sveglia, va a lavorare. È il Codacons, chiara manifestazione del maligno, anche oggi ce lo scrive il nostro ascoltatore, suggerisco avvocato, dovete metterlo come, sì, come logo. Questa cosa vabbè, però noi ci occupiamo dei problemi della gente, per esempio, no? Dai, ecco, la battaglia di oggi del Codacons quale sarà? Vi svegliate lunedì, la battaglia di oggi lunedì sarà? Ma noi siamo due fronti, tassisti, chiederemo al comune di revocare le licenze perché lo sciopero è illegittimo. Oh, sentite qua, tassisti che ci ascoltate tantissimo. Ripetiamolo bene, Carlo Rienzi. Chiedete a Rio di non ricevere i tassisti finché domani c'è il rigatto dello sciopero. Okay. E anche al comune ai comuni, sì, di vedere, siccome i regolamenti prevedono che se tu non vai in servizio, sì, ti deve sospendere la licenza, di sospendere le licenze. Oh. Così almeno la gente va in autobus, eppure meglio, o a piedi, ne guadagna in salute. Oh, e questo è uno. Se oggi per caso a Roma lo incrociate e lo accoglierete con tanto amore su uno dei vostri taxi, sappiate che Carlo Rienzi ha gli occhiali, poi facciamo una descrizione precisa. No. Parliamo dello stadio della Roma, seconda battaglia, no, il nuovo stadio della Roma, no, anche questo è un problema. È un problema, questo anche per Mariona Dinolfi. Ma questo posso stadio della Roma... Posso segnalare al Codacons, sì, che ieri hanno mandato un meraviglioso servizio su... Sì. La presidenza del Consiglio dei Ministri che ha stanziato 55.540 euro per una situazione dedita alla prostituzione omosessuale. Se magari fate dimettere Francesco Spano, il direttore dell'UNAR, che ha stanziato questi soldi e risulta associato a uno di questi circoli, sì, forse fate un'azione meritoria. Per la prostituzione, cioè c'è un'associazione, sì, per la prostituzione omosessuale. Ha previsto di farlo, ma questo è un problema assolutamente minoritario rispetto agli altri. 99.000, una cosa pazzesca, una cosa pazzesca. Se leggete quali sono le associazioni che prendono i soldi. Ennesimo rivolo di spesa buttata via. Ieri le Iene, colpa mia, non l'ho vista, sai, c'era il Milan. Però effettivamente ho visto qualcosa sui giornali oggi. 55.000 2500, ma guardatevi tutto il bando che è interessante. 4 novembre 2018. Questa cosa ti ha veramente rovinato la serata, eh? Più del gol di De Vlofeu. Ti ha proprio... Ma era abbastanza impressionante il comportamento di questo qua che scappava davanti al trono delle Iene. Perché non sapeva che dire, gli diceva: tu sei iscritto a questo club dove fanno sesso e gli hai dato come presidente del consiglio 55.000. Certo, il nostro è un paese veramente della... incredibile. Direttore di un ufficio della presidenza del consiglio, forse ci giovano rivolgere a Paolo Gentiloni, a Maria Elena Boschi, che è la delega alla pari opportunità e contro la Luna, per fare un intervento oggi su questa scena. È uno sputo sulle famiglie italiane che fanno fatica a arrivare a fine mese, è uno sputo sulla dignità delle istituzioni pubbliche italiane. Guardate, basta guardarvi 5 minuti di questa. Vabbè, andate a vedere scappando, il filmato. Tanto c'è tutto, c'è tutto. C'era un bel cappottino rosso, arancione, pare. Arancione. Mentre qui, signori, a Milano si parla da giorni e giorni delle Palme. Ma ragazzi, ma perché odio di Palma, l'ha detto, ah, sì, dice sui Palma, odio di Palma, cos'è che c'hai contro i milanesi? Che tutti appena si capisce sta cosa. Ma pensa che io quando vengo a Roma, Marione, adoro le Palme, guardo così fisso le Palme, la bellezza delle Palme che si stagliano contro il cielo blu di Roma. Ma se sono tutte distrutte queste Palme? E ho detto che hanno bruciate, ne hanno bruciate i vandali, ne hanno bruciate alcune sabato. Oggi il Corriere dedica 2 pagine con intervista a Salvini che manifesta solidarietà alle Palme. Vi giuro, è tutto vero, è tutto vero. No. Salvini chiamato in quanto avrebbe causato l'odio nei confronti delle Palme con una serie di dichiarazioni e dice: ma che cretinate, la mia solidarietà totale alle Palme bruciate. Ecco, spiegate agli italiani però questa questione, perché vi assicuro che voi forse lì la vivete come questione, essendo provincia dell'impero, però qui non abbiamo proprio capito di che si parla. Hanno messo delle palme, allora Starbucks. Perché c'è questo che sta per fare il primo negozio, insomma, di Starbucks a Milano, ha fatto un'iniziativa e ha messo delle palme davanti al Duomo. Ma perché le palme? Ma che cacchio ne so, perché sono belle, perché sono belle, sono belle. Sono tutte distrutte dal picchio lì, da come si chiama. Che il picchio, il peduncolo rosso, il peduncolo rosso. Il picchio, abbiamo anche il picchio, bellissimo sarebbe avere anche il picchio a Milano. No, ha messo le palme e basta, e sono partiti, i clandestini già ci sono, ormai siamo in Africa, le palme. La notizia è perché vi serve Starbucks che fa un caffè pessimo, ma chi? Grandioso caffè italiano, che chiamate con Starbucks? Questa è la domanda. Eccolo là, l'antimondialista, il sovranista, il sovranista di noi. Facciamo un caffè meraviglioso, facciamo Starbucks a tuo. Comunque, in provincia ci stai tu, ci fanno sapere, caro Mario Radinolfi. In provincia dell'impero, su, quando noi facevamo il diritto romano, voi stavate quei belli di Daino, questa è una cosa nota, insomma. Comunque, cioè, Roma, vi rendete conto? Vi rendete Corriere conto? Della Sera, l'ex fiera scene da un cataclisma, un altro scandalo. Cioè? La fiera di Roma, che succede, è ridotta a una cosa schifosa, cioè è distrutta, è piena di spazzatura, sta cadendo, abbandonata, cassonetti, padiglioni distrutti, anfiteatro crollato, 200 milioni di debiti. Sì. Ma io dico, ma si può andare avanti in una città così? Mannaggia, ragazzi, andiamocene lì, del ricercatore americano. Ma lì, voi avete capito questa cosa a proposito dell'avvocato, delle polizze, giusto per chiudere? Cioè la polizza, ha capito? Le polizze servono per occultare denaro di solito di origine illecita. Ah, mannaggia. Siccome non si sa come investirlo, si va nelle compagnie di assicurazione, si comprano le polizze che poi dopo si recuperano quando è il momento con soldi buoni. Ah. Perché sono impignorabili, peraltro. Vabbè, insomma, fate questa. Bisogna avere un elenco di persone da nominare beneficiari. Insomma, si può prendere anche l'elenco del telefono. si parla in generale, cioè non è che state riferendo delle polizze. Potrebbe essere che tu hai qualche polizza di qualcuno intestata. E non lo so, a mia insaputa, è bellissima questa cosa. Va bene, dai, concludiamo con il premio Giacchetti, dai. Hai la faccia come il culo. Va bene, Piero. Piero intanto mi dice non c'è niente da fare, Milan, sei proprio un coglione, strapagato ma coglione. Cioè, ci sono almeno 3 o 4 errori in questa frase, non so, lascio così, ma vabbè. Almeno dateci la motivazione. No, no, Piero è così, Piero si è svegliato e ha detto così. Vabbè, comunque non è il peduncolo ma il punteruolo rosso, mi fanno, io ho detto il peduncolo, il pidocchio, il pinturicchio. Dai, Marione, fa premio Giachetti, eh? La Mariana Lamboschi se non caccia Francesco Spano. Ecco, il ciacchettino arancione, va bene. Sì. E tu, Rienzi, avvocato? Frato Ianni. Ma che t'ha fatto? Del futuro. Ma che t'ha fatto Frato Ianni? Della sinistra. Ma che t'ha fatto Frato Ianni, poverino? E che cerca di recuperare questi rimasugli ormai da spazzatura, Morelli. No. Quindi. Questi del PD, questi del PD, sta parlando di loro. Va bene, dai, vi devo salutare. Carlo Rienzi è il vincitore del 6° scudetto consecutivo, lo juventino Marione Adinolfi, complimenti. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this? Sweden. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, siamo qui, è lunedì, sono le 7:18 minuti e la 199esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata, così come la 10ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Dai che ci siamo, forse è quella buona, la prossima per le province è la 200ª, quindi che facciamo, una grande festa qua a 24 mattino, a 100 forse... A 100 aveva messo la torta, forse dobbiamo mettere 2 torte, non lo so. Provvedi tu, Lorenzo Nespoli, porta tutto tu e metti in carico sul tuo conto personale, molto molto ovviamente cospicuo conto, si sa, strapagato d'altronde, come me, come scritto l'ascoltatore, come Peter Biscapè in regia, come la nostra Elisabetta Fusconi che ha i soldi anche in Svizzera, essendo svizzera, quindi insomma, viviamo nella riccanza. Dai, 7:19 minuti, è il momento della lettura dei giornali, la rassegna stampa di 24 mattino, andiamo. Buongiorno Alessandro e buon lunedì, vai di brutto che oggi si lavora, yuppi! E meno male, e meno male. 20 febbraio, i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata a che cosa? Le vostre pensioni, cari italiani, fondo pensione batte TFR 4-2. Questo è il titolo calcistico. Ricordate quando nel 2007 l'80% dei lavoratori dipendenti dissero no alla previdenza complementare per lasciare il vecchio caro TFR? Ebbene, a 10 anni di distanza, il test di convenienza mostra che invece la maggioranza ora ha compiuto la scelta meno efficiente. Infatti, chi ha mantenuto il TFR in azienda ha ottenuto performance inferiori rispetto a chi ha aderito alla previdenza complementare. Fondo pensione batte TFR 4-2. I versamenti alle gestioni di categoria hanno reso in media il 44% in più che tenere i soldi in azienda. E lo vedremo dopo con Mauro Meazza, ma poi indovinate qual è la notizia principale su tutti i giornali. Il PD, scissione, telenovela giunta alla puntata numero 7984. Titolo di oggi è scissione a rate. A rate. Sembra incredibile, ma è così. Infatti il Fatto Quotidiano è il titolo migliore, secondo me. Il PD fa la scissione a rate. Poi Corriere della Sera, PD il divorzio tra sinistra e Renzi, Repubblica, Bersani con D'Alema, via dal PD, La Stampa, crisi PD, il giorno degli addii, Il Giornale, game over, e c'è la foto di Bersani, Epifani, D'Alema, Il Messaggero, strappo nel PD, Renzi non tratta, Libero, il PD si sfascia, era ora. Il Giorno, esplode il PD, è scissione. Sì, ma guardate che in realtà non pensiate che domani i titoli possano essere il contrario. No, scissione rinviata. Cioè, non è che uno legge è scissione ed è fatta. Ma comunque vedremo tra poco negli approfondimenti delle notizie, nella lettura dei giornali, per quel che riguarda la politica. Quella è la politica, appunto. Poi c'è il paese reale. Il paese di tutti coloro che si svegliano, vanno a lavorare, guardano anche con attenzione certamente a quello che succede nel partito, in uno dei partiti più importanti d'Italia, ma poi hanno a che fare con altre preoccupazioni più quotidiane, più stringenti e più immediate. Per esempio l'inchiesta che fa Il Giorno, pagina 8 e 9, sul giro di affari nel settore Monte dei Pegni. Il Banco dei Pegni, i Monte di Pietà, ho fatto l'unione tra i vecchi Monte di Pietà e i Banco dei Pegni. Persone che vanno a impegnare i loro beni in momenti di difficoltà, un giro d'affari che sfiora gli 800 milioni di euro l'anno. Prima si accettava di tutto, dai quadri alle pellicce, oggi invece vanno soprattutto l'oro, i gioielli, gli orologi. Per la verità, scrive Il Giorno, che poi i proprietari che impegnano i loro beni riscattano nel 95% gli oggetti. Però nei momenti in cui hanno bisogno di contante, eccolo qui, Giovanni Rossi fa una coda, proprio entra nel Banco dei Pegni, ultima spiaggia dell'Italia in crisi, e racconta in piazza del Monte di Pietà a Roma che cosa succede entrando, dove si prende il numerino, nessuno sgomita, ci si dispone secondo traiettorie personali e separate, in religiosa compagnia del numerino sputato dalla macchinetta. C'è chi sta in piedi, chi sta seduto, mentre il tabellone aggiorna le file come alle poste. È sbagliato pensare tra l'altro a una clientela esclusiva stile pensionati. Qui vengono anche proprietari di azienda, artigiani che non sanno come pagare gli stipendi, oppure chi ha necessità di contanti immediati, magari anche per poche centinaia di euro. Il problema di un figlio al monte può trovare soluzione. Ci sono vigilanti in quantità industriale e al lato opposto della scala un altro salone, quello del prolungamento Pegni. I prestiti sono concessi con polizza semestrale, rinnovabili fino a 6 anni, con tasso interesse debitorio annuale oggi fissato all'11,5%. Anche lì una trentina di persone in fila, sguardi bassi, vestiti reduci da lunghe battaglie. Una prova, quella del rinnovo, psicologicamente pesante. Dicono alcuni in fila, sì, è la prima volta che allungo. E allungo che cosa? Allungo appunto il prestito. Insomma, uno spaccato che fa Il Giorno, vi invito a leggerlo, pagina 8 e 9, sulle persone in fila al banco dei Pegni. E poi, sempre per il Paese Reale, questa invece è una buona notizia. Voi che siete alla guida, voi che ascoltate, voi che avete il libretto di circolazione in macchina e il libretto di proprietà. Sappiate che questi due documenti, forse, ce la facciamo, diventano uno solo. Via il libretto di circolazione. Questo è l'annuncio che c'è stato da parte del vice ministro dei trasporti Nencini. In arrivo un foglio unico che verrà anche come certificato di proprietà. Si risparmieranno per questo 39 euro per ogni operazione. Racconta per esempio il Messaggero, che dedica mezza pagina a questa, pagina 15. Avevamo preso questo impegno oltre 2 anni fa, lo abbiamo mantenuto. Presto le autovetture avranno un solo documento al posto di 2 attuali. Ne sarà responsabile il Ministero, per i cittadini ci sarà un risparmio di 39 euro. Questo ha annunciato il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Nencini. E ora certo ci sono i decreti, vanno messi a punto, bisogna vagliare la cosa, bisogna approvarla, eccetera, ma forse ce la facciamo ad avere almeno un solo libretto per la proprietà e la circolazione. In tutto questo, in Lombardia c'è stato un altro caso, per la verità sono 4 casi nel giro di pochi giorni, di meningite, che ovviamente destano un po' di preoccupazione. È vero che, ed è giusto non fare allarmismi in questo caso, le cifre, le statistiche, i numeri sono quelli che contano, e l'assessore alla salute Gallera della regione Lombardia dice sono numeri assolutamente in linea, quindi non ci sono numeri esagerati. Però certo i giornali un po' si interrogano. Il Giornale dedica mezza pagina: la meningite a Milano colpisce anche un 14enne, la Lombardia lancia l'SOS. e il giorno meningite 4 casi, 2 morti, task force per studiare il pericolo. L'ultima è proprio quella di un ragazzino di Segrate di 14 anni, iscritto in una scuola di Milano, ricoverato all'ospedale San Raffaele, tra l'altro nello stesso ospedale era arrivata una catechista di Trucazzano a 49 anni, stroncata, invece lei non ce l'ha fatta. Questo ragazzo di 14 anni invece è dato in una situazione sicuramente seria, ma pare con condizioni migliorate. Dice l'assessore alla Lombardia, Gallera, alla luce di questo nuovo caso, nonostante il tasso di incidenza dei casi da meningite nella nostra regione sia ancora coerente con quello degli scorsi anni, ho deciso di convocare una riunione per un approfondimento sul quadro epidemiologico e eventuali azioni da adottare. Tutto ciò con i massimi esperti di igiene pubblica e infettivologia. Ripeto, i numeri sono quello che contano e sono in linea con gli altri anni, però questa anche coincidenza di temporale di vari casi in giorni molto vicini fanno scattare una sorta di task force. In tutto questo, l'articolo invece che mi fa più della giornata, l'articolo da lunedì, da Mani sul Volante, è quello che racconta Italo Carmignani sul Giorno, anzi sul Messaggero, scusate, a pagina 13, ed è l'ennesima vicenda di assegnazione delle case nelle zone terremotate, questa volta a Norcia. Allora, siamo un paese in cui abbiamo detto che tutti avrebbero avuto le casette, le soluzioni temporanee, eccetera, entro Natale. Siamo al 20 febbraio, Natale mi risulta essere passato. È passato, Peter Bescapè? Sì. Quest'anno è quello del 2016. Sì, avevano detto del 2016, non è che avevano detto entro Natale paraculandoci, no. Sono passati 2 mesi. Ebbene, e succede questo a Norcia. Ecco le prime casette. E danno le prime casette. Le danno a una persona che ne aveva diritto a 6 mesi dal sisma, 6 mesi dal terremoto, e consegnano le chiavi a una persona. E a fianco una nonna Cecilia, inizia a scoppiare a piangere, perché lei non è tra le assegnatarie. Dramma, tragedia, ovviamente, comprensibile, tanto che questa persona, alla quale è stata affidata una chiave per la casetta, dice: guardate, la mia casetta, datela prima a questa signora anziana che aspetta, a nonna Cecilia. E quindi, eccolo qua, ecco le prime casette. Arriva l'assegnazione a una famiglia che dice: la mia, datela per favore a un'anziana che sta piangendo qui a fianco. Ecco, siamo un paese in cui a 6 mesi dal sisma siamo a questo. Abbiamo visto le riffe per dare le case, le estrazioni, le lotterie. Adesso la casa 1 che dice: scusate, mi sento in colpa, sono terremotato, ma mi sento in colpa avere una casetta, datela prima questa signora anziana che sta piangendo. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan, il leone da microfono dell'informazione. Evviva le 7:35 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua. Allora, dobbiamo parlare del Partito Democratico, telenovela giunta alla puntata numero 7482. Scissione a rate, scissione che poi questa scissione, ma si è capito perché questa scissione? Anche, pensate, anche De Luca del Partito Democratico non sa neanche che cosa sia questa scissione. Si parla ormai da settimane di scissione. Se lei mi domanda si fa la scissione per quale motivo preciso, io non glielo so dire, sinceramente. De Luca, presidente della regione Campania del Partito Democratico. Ora voi vorreste risposte da me, se non le sa manco uno degli alti livelli del partito o dai giornali. Secondo Mario Adinolfi, forse la lettura più spiccia e chiara, ce l'ha detto prima alle 6:30, tutta questa scissione è molto semplice. Con la legge elettorale attuale Renzi farebbe strage e non ricandiderebbe tutti quelli che casualmente dicono scissione. Quindi no, il congresso, le date, spostiamo, facciamo prima, facciamo dopo. No, la poltrona, banalmente. Probabilmente la poltrona. Cioè, non sarebbero ricandidati e quindi dicono andiamocene via, così con la nuova legge, con questa legge elettorale. Ci candidiamo, magari prendiamo il 4 o il 5%, ma salviamo un po' di posti in Parlamento. Lettura maligna di Maria Dinolfi, che io però condivido. Vediamo invece i giornali. Allora, è andata in onda la assemblea di ieri. È stato avviato il percorso per dar vita a una formazione alternativa. Allora, partiamo dai protagonisti. Renzi. Di Renzi ci sono vari retroscena, l'unico virgolettato è della Stampa. Federico Geremicca lo raggiunge e Renzi dice alle 6:30 di ieri pomeriggio, alle 18:30, apra le virgolette e sta filando veloce in direzione Firenze in macchina. Ecco, apra le virgolette, è stata prima di tutto una bellissima discussione, questo dice Matteo Renzi. Ottimi Veltroni e Fassino. Ottima, bravissima la Bellanova, tutti veramente apprezzabili, siamo l'unico partito a discutere ancora così. E poi, vabbè, dopo la premessa un po' così, va al sodo. L'idea è questa, adunata al Lingotto dal 9 al 12 marzo, gazebo e primarie il 9 aprile o alla peggio il 7 di maggio, l'11 giugno le amministrative e poi confida, Renzi spera anche nelle elezioni a settembre. E poi aggiunge la scissione alle sue ragioni, che la ragione non conosce. Che restino o che vadano, ma resteranno, vedrà, resteranno. È come se il congresso lo avesse già vinto Renzi. Stavolta è difficile non essere d'accordo con lui. E dice, aggiunge Renzi, stavolta non serviva fare nulla, è bastato stare fermi e vedere il bluff. Ecco, lo definisce così, ho scoperto il loro bluff, non li seguirà a nessuno. Non li seguirà nessuno e punta alle primarie già ad aprile. Questo è Renzi e i virgolettati e poi è tutto un profluvio di retroscena. Per la verità no, c'è anche un'intervista a Enrico Rossi. Enrico Rossi, uno dei tre scissionisti, Rossi, Speranza e Emiliano, anche se su Emiliano poi dobbiamo dire qualcosa tra poco. Rossi, governatore della Toscana. Ora rischio in Toscana, qualcuno si assumerà la responsabilità di spaccare tutto. Pagina 5 del Corriere della Sera, stato d'animo Rossi molto pesante. Renzi ha alzato un muro e ci ha dato bastonate. La scissione è una sua scelta, non ci resta che prenderne atto. È venuto qui con l'idea di darci una spinta, non ha fatto neanche la replica. Tutto il dibattito è stato organizzato per bastonarci. Ma lei si fida di Emiliano? Ognuno ha il suo profilo. Michele ha deciso di parlare, ha detto che sarebbe intervenuto dal palco, ma poi Giacomelli ha chiuso il quadro. Ma non rischiate ora la scissione della scissione? I renziani hanno fatto propaganda, ma c'è un comunicato congiunto che rende giustizia a Emiliano. Ecco, Emiliano, tra l'altro poi Rossi dice sì, potrei rischio forse di cadere con la giunta ora nella regione Toscana, ma qualcuno si assumerà la responsabilità di spaccare tutto. E poi dice anche abbiamo scelto il nome per il nuovo partito, chiamatelo come volete, la parola socialismo credo debba funzionare, dice Enrico Rossi, e uguaglianza sarà il tema chiave. Però tutti sono concentrati su Emiliano. Che è successo a Emiliano? Allora, Emiliano, fino a due giorni prima dell'assemblea, diceva peste e corna di Renzi. È andato fino al giorno prima, ha detto peste e corna di Renzi. È andato davanti a Renzi e ha detto io mi fido del nostro segretario, che riuscirà a ricomporre la situazione. Ah, colpo di scena, Emiliano non è più tra gli scissionisti. È uscito dall'assemblea e ha firmato un congiunto comunicato con gli scissionisti dicendo no, sono con Rossi e Speranza, andare avanti con la scissione. Ma... Infatti, il Corriere della Sera e tutti i giornali fanno un retroscena. Ecco, per Renzi il vero caso è Emiliano. Maria Teresa Meli, a pagina 8, leader spiazzato dall'ultima scelta del governatore. È l'ultima giravolta di Emiliano? Domani cambia idea di nuovo? Questo diceva Renzi ai suoi, finita l'assemblea. Questa non è una scissione, è una farsa, osserva un altro, un renziano di rango ovviamente anonimo. Il dilemma di Emiliano anche su Repubblica, ha detto non ho dormito tutta notte, al contrario di Bersani che si è presentato in assemblea dicendo ho dormito da Dio. Ecco, tutto così, tutto così per le prime 10 pagine dei giornali, signori, per le prime 10 pagine dei giornali. In tutto, ovviamente, vedendo questa confusione, chiamiamola così, sotto il sole del Partito Democratico, c'è chi rialza la testa come Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi che, attenzione, intanto ha annunciato di essere sul punto di adottare 3 nuovi cagnolini. E questo, vabbè, siamo contenti per i cagnolini. Ma poi Silvio Berlusconi ora rialza la testa, secondo Repubblica, la reazione affidata in questo retroscena di Carmelo Lo Papa a pagina 7, ora Silvio vede la vittoria. La sinistra è in frantumi, noi possiamo vincere, con un centrodestra unito e per la prima volta, secondo Repubblica, si fa il nome di una persona sulla quale in realtà il centrodestra punta abbastanza, ma viene fatta messa nero su bianco da Repubblica. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Silvio Berlusconi sta pensando di candidare lui come premier. L'intento, ovviamente, non vi sfuggirà, è di scegliere un leghista e quindi ricompattare il centrodestra, visto che si parla molto di, anche qui in qualche modo, scissione tra Forza Italia e Lega. Quindi Berlusconi punterebbe su Luca Zaia. Partiti che si sfasciano o forse si scindono, partiti che si uniscono. Per la verità, se andiamo in Europa e vado su Repubblica, dove c'è un articolo di prima pagina di Alberto D'Argenio, c'è una notizia, Rumors, notizia che Repubblica mette in ampio risalto in prima pagina e poi due pagine, pagina 10 e 11, anche perché riguarda il governo europeo, cioè la Commissione europea, e che sarebbe di fronte a una svolta. Pensate, Jean-Claude Juncker, secondo Repubblica, sarebbe a un passo dalle dimissioni. Perché? Nelle prossime 4 settimane, scrive D'Argenio su Repubblica in prima pagina, il presidente della Commissione europea, Juncker, potrebbe lasciare. La partita si giocherà a marzo, mese cruciale per il futuro dell'Unione. Lui, se non è in grado di rilanciare con la propria impronta l'Unione europea, potrebbe lasciare la seconda metà del mandato a uno dei suoi vicepresidenti, con il finlandese Katainen favorito rispetto al socialista olandese Timmermans. Dunque, governo in crisi nell'Unione Europea? Questo almeno è quello che giura Repubblica. Rivoluzione a Bruxelles, il presidente dell'Unione Europea Juncker è pronto a dimettersi. Due pagine su Repubblica. A proposito di dimissioni, il Pescara per esempio ha sostituito con Zeman, che è andato bene, vero Mauro Meazza? Buongiorno Alessandro, no, temevo si scindesse, dobbiamo scindere tu ed io. No, non ho capito nulla, ammetto che della scissione no. Come del mi Partito sembra Democratico. Più chiara la voluntari di Scrasur. Sì, esatto. Spiegatevi bene, mannaggia. Lo volontari di Scrasur, ecco. Che cavolo ordini, mannaggia la puttana, spiegatevi bene. Ecco, sottoscrivo l'accorato appello di Angelino e vado senza por tempo in mezzo a declamare gli endecasillabi del lunedì, giusto, caro Alessandro giusto. Milan. Il tempo fugge più di un terzino in fascia. E già son 10 anni dalla scelta per i fondi o per chi il TFR lascia. Si vede al fin chi è andato più alla svelta, se la pensione di scorta oppure quello che chiamavamo un di liquidazione. Vedi sul Sole d'oggi il gran tabello che fa il confronto in remunerazione. In più parliamo di fisco e digitale, per giudicarne il paginone intero quale paese pur continentale aiuti Industria 4.0. Affitti, Italia-Cina e poi giustizia, vedrai composti come in un bouquet, al fin che il lettor nostro abbia letizia per cose sempre utili a sapè. Già sai che il lunedì trovi l'esperto, sempre arricchito con l'ebook sul sito, con tutte le risposte nell'inserto e mille altre da cliccar col dito. Segnalo che a Milano il campionato si gioca tra le palme, piante d'Africo. Vedremo poi con quale risultato sia in Duomo che a San Siro. Ed ora il traffico. Alessandro Milan, la scimmia che balla dell'informazione. No! No! Hai anticipato la carta costa, come hai fatto? Comunque vado a Pantarei, singing in the rain. E tenete le mani sul volante prima che vi andate a schiantare. Allora, per favore. Tra l'altro l'ho letto questo testo, una minchiata colossale. Cioè, tutti a parlare di un testo profondissimo, una roba. L'ho letto un testo incomprensibile in cui ci sono due buttate lì, tre o quattro frasi di filosofi mischiate. Vabbè, occidentali scarma. Allora, ecco, lo so, adesso mi massacreranno su questa cosa, non lo so, vabbè, andiamo avanti, non ho, animalisti, non ho mica toccato la scimmia, non ho detto nulla contro le scimmie. Allora, mettiamoci d'accordo, cari colleghi, cari amici giornalisti, cari amici miei, mettiamoci d'accordo perché oggi se uno legge i titoli dei giornali riguardo all'Italia, all'Unione Europea, i soldi che dobbiamo, quante ne dobbiamo e quando li dobbiamo dare... Beh, guardate qui, Corriere della Sera, pagina 19, la manovra correttiva, il conto si riduce da 3,2 a 2,5 miliardi, ma peraltro non erano 3,4 miliardi, già c'è il primo. Comunque il Corriere, con Lorenzo Salvia, scrive che potrebbe scendere a 2 miliardi e mezzo, quindi con un bello sconto. Il conto della manovrina correttiva chiesta all'Italia da Bruxelles per evitare una nuova procedura di infrazione. Dunque, uno sconto a 2,5 miliardi da 3,2. Salto sul giornale. Scade l'ultimatum europeo. L'Italia ha due giorni per trovare 3,4 miliardi. Ecco, sale a 3,4. Nessuno sconto. Nessuno sconto, neanche da 500 milioni, quindi secondo il giornale Antonio Signorini nessuno sconto. Dunque, sono 3,4 o 3,2 miliardi, c'è lo sconto o non c'è lo sconto, però il giornale è sicuro, bisogna trovare i soldi entro due giorni. Salti sul Messaggero, pagina 9, debito, l'Unione Europea darà più tempo all'Italia. Non c'è la scadenza di due giorni, mercoledì non scatterà la procedura, Bruxelles attende aprile per vedere la manovra. Ora, per carità, è vero che bisogna attendere le certezze, fino ad allora sono tutte ipotesi, le ipotesi che ci sono sui giornali, Corriere, Giornale e Messaggero, sono tre ipotesi in qualche modo conflittuali, comunque vedremo. C'è una pagina del Messaggero, Lorenzo De Cicco e Mauro Evangelisti sullo stadio della Roma. Al Messaggero ovviamente sono molto con gli occhi ben puntati a capire si farà o non si farà questo stadio della Roma. Secondo il Messaggero anche Beppe Grillo è in campo, sbarcherà a Roma per incontrare il sindaco Virginia Raggi e provare l'ultimo sorprendente tentativo di convincerla a sostenere il progetto di stadio e grattacieli a Torrivalle. Non incontrerà tutti i consiglieri comunali, svolgerà una riunione blindata con la Raggi e quelli che vengono definiti dal Messaggero i suoi due tutor, cioè i parlamentari Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede. Non ci sarà, secondo il Messaggero, Marcello De Vito, presidente del Consiglio Comunale, vicino alla deputata Roberta Lombardi, contrario allo stadio e per questo, racconta il Messaggero, escluso dalla riunione. In ogni caso, le manovre per lo stadio di Roma, anche questa è una vicenda che va avanti. E ora dobbiamo parlare di palme. Io, ripeto, da tre giorni ho detto che questa discussione delle palme davanti al Duomo di Milano con annesse questioni politiche mi hanno fatto dire che tifo Kim Jong-un è un missile termonucleare sull'Italia in modo da scomparire tutti in grande silenzio e velocemente, perché è un dibattito surreale. Oggi il Corriere della Sera, visto che hanno bruciato alcuni vandali, hanno dato fuoco sabato sera, sabato notte, a una palma o a un paio di palme, Il dibattito oggi viene rilanciato. Il Corriere della Sera dedica due pagine, due intere, al dibattito sulle palme. Prima le palme incendiate e poi l'ironia, gli insulti, il razzismo sui social, con tanto l'intervista a Salvini, Matteo Salvini, leader della Lega, che parla delle palme e che esprime solidarietà alle palme. Giuro, è tutto vero. Ma voi non avete fatto una campagna d'odio contro le palme? Chiede Marco Cremonesi. Ma non mi faccia ridere, chi ha dato fuoco alle palme è un povero cretino. Le palme hanno tutta la mia solidarietà. Ecco, credo che questa sia la dichiarazione politica del giorno. Matteo Salvini che dichiara tutta la propria solidarietà alle palme bruciate. Se andiamo in America invece, signori, non è che stiamo molto meglio, ma avete sentito, l'abbiamo sentito, ce l'abbiamo ancora da recuperare, adesso lo recuperiamo, intanto ve lo spiego. Allora, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, si è presentato in un comizio in Florida, poi ha twittato, ha raccontato. Allora, c'è stato un attentato in Pakistan con 80 morti nella località di Sewan. Lui deve avere equivocato, ha scambiato delle consonanti e per lui Sewan era diventato Sweden, la Svezia. Allora ha iniziato a twittare, ma avete sentito? Un attentato in Svezia, nella tranquilla Svezia. È andato in un comizio e ha detto Sweden, vi rendete conto? Sweden! Senti qua. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this? Sweden! Chi ci potrebbe mai credere? Who would believe this? Sweden, nella tranquilla Sweden, nella Svezia. Ma non è successo niente in Svezia. Trump, non è, in Svezia stanno benissimo, sono tranquilli. Non è successo nulla. Ma niente, è così. È la gaffe del presidente americano. Va tutto bene così, va tutto bene. Vabbè, ha detto che c'è stato un attentato in Svezia e dai, su, non stiamo a sottilizzare. Ha fatto un errore, è vero, ha fatto un comizio, ha parlato probabilmente americani che pensavano in Svezia, gente che chiamava i parenti in Svezia, tutto a posto, a postissimo in Svezia, non è successo nulla. Ma sui giornali ovviamente viene raccontata anche questa gaffa. Va bene. Quanto manca? Vi faccio vedere solo, vi segnalo, una pagina di intervista su Libero ad Alex Schwatzer, il marciatore intervistato da Tommaso Lorenzini, che racconta sempre a 6 mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto prendere parte alla marcia di Rio, del complotto contro di lui. Lui dice: così mi hanno fatto fuori per salvare lo sport marcio. E insomma, l'ex marciatore azzurro ancora chiede giustizia per quello che è successo, secondo lui, ai suoi danni a Rio. Una notizia invece di Repubblica: il padrino autorizzò il triangolo amoroso, cade il tabù della mafia. Salvo Palazzolo racconta che attraverso alcune intercettazioni gli inquirenti hanno capito che a San Giuseppe Iato un esponente della mafia ha dato il suo benestare a un triangolo amoroso, cioè ha detto che il marito, mafioso anche lui, non deve lamentarsi se la moglie ha l'amante. In generale, racconta Repubblica, queste cose si risolvevano in altri modi ben più spicci. In passato invece così la mafia si aggiorna. Il padrino autorizzò il triangolo amoroso, cade il tabù della mafia, così cambia il concetto d'onore. L'amante era un boss più importante del marito e quindi... Ma chi se ne frega!